Capitolo 130. L'ottava fatica. Le cavalle di Diomede. Euristeo ordinò a Eracle, come sua ottava fatica, di catturare le quattro cavalle selvagge del tracio re Diomede. Non si sa con certezza se egli fosse il figlio di Are e di Cirene, oppure se fosse nato dall'incestuoso amplesso di Asteria col fratello Atrante, che governava sui bellicosi bistoni. Le sue stalle, poste nella ormai scomparsa città di Tirida, erano il terrore di tutta la Tracia. Diomede, infatti, teneva le sue cavalle legate con catene di ferro a mangiatoie di bronzo e le nutriva con la carne dei suoi ospiti ignari. Un'altra leggenda vuole che si trattasse di stalloni e non di cavalle, ed elenca i loro nomi: Podargo, Lampone, Xanto e Dino. Con un piccolo gruppo di volontari, Eracle veleggiò verso la Tracia e si fermò a Fere a far visita al suo amico re Admeto. Giunto a Tirida, sopraffece gli stallieri di Diomede e condusse le cavalle sulla riva del mare, dove le lasciò in custodia al suo amante Abdero, e tornò indietro ad affrontare i bistoni che si erano lanciati all'inseguimento. I bistoni erano molto più numerosi, ma Eracle riuscì ad assicurarsi la vittoria con l'astuzia. Tagliò infatti un canale e l'acqua del mare invase la bassa pianura. Fuggirono i bistoni terrorizzati. Eracle li raggiunse, stese al suolo Diomede con un colpo della sua clava, ne trascinò il corpo lungo le rive del lago artificiale e lo gettò alle cavalle, che divorarono la carne ancora palpitante. Placata così la loro fame, poiché durante l'assenza di Eracle avevano già divorato Abdero, l'eroe riuscì a domarle senza fatica. Secondo un'altra leggenda, Abdero, benché nato a Opunte nella Locride, era al servizio di Diomede. Alcuni lo dicono figlio di Ermete, altri figlio dell'amico di Eracle, Lopunzio Menezio, e dunque fratello del Patroclo che cadde a Troia. Dopo aver fondato la città di Abdera, presso la tomba di Abdero, Eracle aggiogò al cocchio di Diomede le cavalle, che fino a quel giorno non avevano mai conosciuto morso o briglia. Poi le guidò a grande velocità attraverso le montagne, finché raggiunse Micene, dove Euristeo dedicò le cavalle a Era e le lasciò pascolare libere sull'Olimpo. Pare che fossero in seguito divorate da bestie feroci, ma altri affermano che sopravvissero fino alla guerra di Troia e forse anche fino ai tempi di Alessandro Magno. Le rovine del palazzo di Diomede ancora si vedono a Cartera, e ad Abdera si celebrano giochi in onore di Abdero. Tali giochi comprendono le solite gare, salvo la corsa dei cocchi. Taluni infatti dicono che Abdero fu ucciso quando le cavalle rovesciarono il cocchio al quale egli le aveva attaccate. La cattura di cavalli selvaggi destinati a sacrificio in una festa religiosa pare facesse parte, in certe regioni della Grecia, del rito della incoronazione. Accanto a Eracle, che doma Arione, una prodezza compiuta anche da Onco e da Adrasto, troviamo Bellerofonte che cattura Pegaso. Il mito fondato su un rito si è qui fuso con la leggenda che narra come Eracle, in cui si identificano forse i teani che si impadronirono di Abdera scacciandone i traci, abolì un'antica consuetudine. Secondo tale consuetudine, donne possedute e con maschere di cavallo divoravano il re sacro al termine del suo regno. Dopo la riforma il re moriva invece travolto dal carro. Il fatto che la corsa dei cocchi non fosse compresa tra le gare dei giochi di Abdera indica forse che la riforma fu in seguito respinta. Podargo è così chiamato dall'arpia Podarge, madre di Xanto, il cavallo immortale che Posidone diede a Peleo come dono di nozze. Lampo ricorda Lampone, che faceva parte della pariglia di Eos. Diodoro afferma che le cavalle furono lasciate in libertà sull'Olimpo, e ciò forse significa che il culto cannibalico del cavallo sopravvisse fino ai tempi ellenistici. Canali, gallerie o condotti sotterranei furono spesso descritti come opera di Eracle.